se uno vuole leggere dei nuovi libri, non legga quelli che sono in testa alle classifiche, perché è la merce che più un pubblico ampio prende per ingenuità, perché pensa di non aver problemi, perché vengono confermati in quello che pensano, invece di ricevere delle inquietudini, di ricevere dei dubbi, che è la cosa che la vera letteratura fa.